Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ritrovati, questa è Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda il mondo di tutti gli animali, umani e non. Una trasmissione che va in onda ormai da 8 anni e attraverso la quale riflettiamo su come costruire passo dopo passo una società più giusta per tutti gli esseri viventi. Nella puntata di oggi, la numero 547, parleremo di bisonti che ritornano in Gran Bretagna, di coronavirus, vittime non solo umane, diritti delle piante, di pasti vegani e vegetariani nelle mense e di vivisezione. Il tutto arricchito dalle scelte musicali di Giuseppe Coco e dalle proposte gastronomiche di Gabriele Palloni. Apriamo spesso le nostre puntate con notizie che riguardano il coronavirus, ma è inevitabile in quanto l'emergenza decisamente non è ancora finita. Nel mondo si contano quasi 15 milioni di contagi e circa 600.000 vittime umane, cifre davvero dolorose a pronunciarsi. Ma ci sono altri dati che passano sotto silenzio perché il coronavirus sta decimando, prima del tempo per essere precisi, migliaia di popolazioni di animali d'allevamento, siano essi destinati alla produzione di pellicce o alla catena alimentare. Ad aprile, in piena pandemia, la Tyson Food, colosso americano del settore, annunciava l'abbattimento di milioni di animali d'allevamento a causa della chiusura di uno dei più grandi impianti di lavorazione delle carni negli Stati Uniti. Dopo la crisi dei macelli statunitensi e di quello tedesco, oltre ai contenuti focolai in alcuni macelli e salumifici italiani, arriva un altro colpo inferto dal virus, che sta seriamente aggravando la diffusione del contagio in Brasile. Gli allevamenti di carne starebbero infatti contribuendo a diffondere il Covid-19 in almeno 3 luoghi diversi in tutto il paese, poiché il virus continua a migrare dalle grandi città verso le aree interne. Insomma, dall'America all'Europa e all'Australia, i macelli hanno scatenato focolai di coronavirus-19, con impianti in tutto il mondo che si sono visti costretti a chiudere. Ma anche gli allevamenti da pelliccia di visone sono tenuti sotto la lente di ingrandimento. Casi di Covid-19 sono stati rilevati di nuovo in un altro allevamento in Olanda, portando a 25 il numero di allevamenti colpiti dal nuovo coronavirus nel paese, secondo quanto dichiarato dal Ministero dell'Agricoltura olandese. Questi nuovi casi sono stati scoperti nel sud-est del paese. Di conseguenza più di 1.100 visoni saranno macellati, si legge in una nota stampa, il più rapidamente possibile, per limitare la diffusione del virus, secondo il Ministero. Più di 1 milione di visoni sono già stati abbattuti nei Paesi Bassi da quando la pandemia ha iniziato a diffondersi negli allevamenti ad aprile. Dall'Olanda ci spostiamo in Spagna, dove circa 100.000 visoni di un allevamento del nord-est del paese saranno uccisi perché molti tra loro sono risultati positivi al virus. L'epidemia tra i visoni d'allevamento, che si trova nel comune di La Puebla del Valverde, in Aragona, è stata scoperta dopo che la moglie di un uomo che ci lavora si è ammalata di Covid-19 a maggio. Come per il caso olandese, anche in Spagna si procederà con l'abbattimento per evitare il rischio di trasmissione alle persone, ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura d'Aragona, Joaquín Luna, anche se non esistono prove che il coronavirus si trasmetta dai visoni alle persone. Qualche ascoltatore potrebbe giustamente chiedersi qual è la morale della favola, visto che stiamo parlando di macelli e allevamenti che hanno come fine ultimo comunque la morte di questi animali. Perché quindi indignarsi per morti accelerate, diciamo così? L'ascoltatore avrebbe ragione, naturalmente, infatti per la redazione di Restiamo Animali nessun animale dovrebbe essere sfruttato o ucciso per diventare cibo o pelliccia. Quello che ci lascia sconcertati è la velocità e la facilità decisionale alla risoluzione del problema affinché la catena di smontaggio di corpi non si fermi, affinché il virus non si diffonda, Ma attenzione, non tanto perché può contagiare altre persone, ma perché così le multinazionali si troveranno a dover chiudere i battenti se non puoi allevare, se non puoi macellare e quindi vendere. Può dunque un sistema alimentare basarsi su un sistema di produzione oltre che così violento e crudele di questo tipo? Andremo avanti con queste modalità anche con le future pandemie che si presenteranno? Quanto le aziende e il sistema produttivo e di consumo potrà reggere in questi termini? Sono domande a cui bisogna cominciare a trovare sin da subito delle risposte. Dopo 6.000 anni di assenza tornano i bisonti nel Regno Unito. Non è fantascienza, ma l'inizio di un progetto sperimentale per far tornare il bisonte in Gran Bretagna dopo appunto 6.000 anni di assenza. Il progetto, dal costo di 1 milione di sterline, mira disperatamente a scongiurare l'estinzione della specie. Nell'aprile del 2022 sarà messo in libertà nel Kent, nel sud dell'isola, un gruppo di animali, un maschio e 3 femmine. I bisoni saranno fatti arrivare dalla Polonia o dall'Olanda, dove i programmi di ripopolamento, ogni anno una femmina dà alla luce un cucciolo, hanno avuto successo. Un progetto che, oltre a tentare di evitare l'estinzione dell'animale, ha anche uno scopo ambientale. Come ha di fatto spiegato Paul Hathaway del Kent Wildlife Trust, questo progetto dimostrerà che una soluzione selvatica basata sulla natura è quella giusta per affrontare la crisi climatica e naturale che stiamo affrontando. L'uso di specie ormai mancanti come il bisonte per ripristinare i processi naturali negli habitat è la chiave per creare bioabbondanza nel nostro paesaggio, ha concluso. I bisonti verranno infatti liberati in un'area di 500 ettari che condivideranno anche con altri animali al pascolo, come i pony Koenig, allo scopo di creare un habitat variegato. Grazie alla loro enorme mole, infatti, i maschi arrivano a pesare anche 1 tonnellata e sono soliti sfregarsi contro gli alberi e mangiarne la corteccia, spesso anche facendoli morire. Ma questa distruzione ha un risvolto ingegneristico dell'habitat, perché crea aree aperte e illuminate, dove le piante autoctone possono prosperare e il legno morto aiuterà altre piante, funghi e animali. Questo crea un tappeto di legno morto per gli insetti, che a loro volta diventano cibo per uccelli. Ci sembra un tentativo interessante per i bisonti e per la biodiversità. Se dovesse funzionare e i bisonti cominciassero a riprodursi, come gestiranno però un eventuale soprannumero? Staremo a vedere fra qualche anno l'evolversi dell'esperimento. Before the COVID-19 crisis crashed into our world, governments were already facing the convergence of the climate crisis, the inequality crisis, and the oil price crisis. Now, the fourth, the global global health crisis has not only converged on us as well, but has accelerated the impacts of the previous crisis, deepening economic disorder and accentuating social suffering. In emerging from this, everyone can play their part, individually and collectively. The future we choose should be one of resilience, starting with aligning the food system to the four principles set out by the FAO: availability, access, utilization, and stability. Well before COVID-19, fossil fuels were already showing signs of irreversible decline. They will recover somewhat from the historically low prices, but they will not recover. E a proposito di piante, Lorenzo Guadagnucci recensisce per Restiamo Animali Flower Power, le piante e i loro diritti di Alessandra Viola. Le piante costituiscono un mondo meraviglioso che non abbiamo ancora pienamente compreso, ma da cui dipende la nostra sopravvivenza sul pianeta. Ascoltiamo la recensione di Lorenzo Guadagnucci. Possono un fiore, un arbusto o un albero avere dei diritti? Ha senso estendere al mondo vegetale le considerazioni che stiamo sviluppando con riguardo agli animali non umani? Il tema è controverso, delicato, in piena evoluzione. Alessandra Viola ha scritto un libro che già nel titolo dichiara qual è la risposta. È Flower Power, le piante e i loro diritti, pubblicato da Einaudi. Negli ultimi anni le conoscenze sul mondo vegetale hanno avuto un enorme sviluppo e abbiamo capito che la vita delle piante è assai più ricca, più varia, più sorprendente di quanto pensavamo. Le piante vedono a modo loro, comunicano a modo loro, provano dolore a modo loro, fermo restando che il loro mondo è tutt'altra cosa rispetto alla vita animale. E comunque non possiamo in alcun modo considerare le piante come degli oggetti inanimati. Questo è il punto da cui muove Viola per raccontare gli sviluppi di un campo di impegno e di interesse finora piuttosto trascurato. Per quanto i libri di Stefano Mancuso e di Peter Voleben abbiano divulgato le conoscenze e aperto nuove prospettive. Diciamo che la storia umana può essere letta come un'espansione del campo dei diritti, almeno sul piano della teoria e della codificazione, dato che a diritti conclamati non necessariamente corrispondono diritti effettivi, come ben sappiamo. Tale espansione, come ben sappiamo, è andata anche oltre la specie umana, tanto che lo sviluppo delle norme riguardanti le tutele per gli animali non umani negli ultimi 20-30 anni è stato notevole ed è tuttora in corso. L'impegno degli animalisti non a caso si svolge su due piani, complementari fra loro. Da un lato la persuasione delle persone in modo da crescere l'area del consenso e superare lo specismo esistente nella società, dall'altro i processi politici e legislativi. Qualcosa di simile sta avvenendo per la tutela della vita vegetale. Cresce la consapevolezza che le piante sono esseri viventi degni della massima attenzione e del massimo rispetto. E cresce anche la spinta a intervenire sul piano del diritto e delle leggi. Il mondo della natura non è più separato dal mondo degli umani, come a lungo si è preteso. Perciò si comincia a parlare di diritti delle piante. Alessandra Viola nel suo libro cita il caso della tribù Maori Whanganui in Nuova Zelanda, che si è impegnata in una lotta legale di lungo periodo contro il governo per proteggere il corso d'acqua dal quale la tribù prende il nome. Il fiume era minacciato da progetti che di solito sono considerati di sviluppo, ma che poi portano inquinamento, interruzioni e così via. La tribù ha condotto la sua lotta sostenendo che il fiume era un membro della comunità, perché così è considerato nella cultura Maori. Una concezione del tutto estranea al diritto codificato in Occidente. Eppure, alla fine, la tribù l'ha avuta vinta. Lo Stato ha riconosciuto i diritti del fiume Whanganui. È sorprendente, certo, questo risultato, ma è degna di riflessione una circostanza storica. La Nuova Zelanda ha anche un altro primato. Nel 1893, fu il primo paese a riconoscere il diritto di voto alle donne. Mutatis mutandis, possiamo aspettarci grandi sorprese sul piano dei diritti delle piante anche altrove. D'altronde, due paesi dell'America Latina, l'Ecuador e la Bolivia, hanno già inserito nelle proprie costituzioni i diritti della natura, di Pachamama, ed è del 2010 la solenne Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra, sottoscritta a Cochabamba, in Bolivia. Un nuovo mondo del diritto è dunque in evoluzione. E Alessandra Viola, alla fine del suo libro, ha messo giù una potenziale dichiarazione dei diritti delle piante in 8 articoli, a mo' di proposta, di bozza utile ad avviare una discussione. Nel preambolo a questi 8 articoli si legge, fra l'altro, che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie viventi costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo. All'articolo 1 poi si parla del diritto alla vita. Piante e animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. Qualsiasi atto che comporti l'arbitraria uccisione di una pianta è un biocidio, cioè un delitto contro la vita. E poi l'articolo 2, il diritto alla riproduzione. Ogni pianta ha il diritto di riprodursi in modo naturale. L'articolo 3, ogni pianta ha il diritto di non subire trasformazioni artificiali del proprio codice genetico che prevedono l'inserimento di geni di specie diverse. L'articolo 4, le piante hanno il diritto di vivere in un ambiente naturale in cui potersi liberamente evolvere insieme agli animali. E così via. Questi diritti possono sorprendere e scioccare, c'è chi li ha criticati, ma è bene che la discussione proceda, perché tutto, ma proprio tutto, indica che l'umanità deve imboccare la via dell'umiltà, incamminandosi sulla strada che dovrà portare a una nuova concezione di sé, con l'umanità parte del pianeta, coalizione di esseri viventi fra altri esseri viventi. A questo punto potrebbe un animalista ortodosso sollevare un dubbio. Come la mettiamo col cibo? Come facciamo a mangiare le piante se queste hanno diritti e fra questi il diritto alla vita? Dovremmo forse fare come i jainisti indiani che si nutrono, almeno i più rigorosi, di soli frutti caduti e di piante che una volta tagliate possono ricrescere? Diciamo che no, non è detto che si debba arrivare a tanto. Fra la vita animale e quella vegetale resta una differenza profonda nella nostra percezione e nelle nostre conoscenze. Ed essendo noi umani animali che per vivere hanno bisogno di attingere all'esterno il proprio nutrimento, è gioco forza necessario che mangiamo vegetali, ma dobbiamo farlo con coscienza e con rispetto, considerando poi, come osserva Alessandra Viola, che un'alimentazione esclusivamente vegetale è comunque l'opzione più favorevole per le piante, dato che, notoriamente, per ottenere la stessa quantità di cibo, la produzione di carne implica un impiego enormemente superiore di vegetali. L'alimentazione vegana è salva. Alessandra Viola, Flower Power, le piante e i loro diritti, editore Einaudi. poteva che essere dedicata alle piante la ricetta di oggi, curata come sempre dal nostro Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni, all'interno del suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile. E vi ricordiamo che tutte le ricette, così come le puntate, sono riascoltabili in podcast sul sito www.restiamoanimali.it. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Al grido di Flower Power si annuncia la ricetta di oggi e per dare potere alle piante ecco arrivare in aiuto un esercito di superfood estivi. Gli ingredienti per 4 persone per la mousse di cioccolato con frutti rossi e mandorle sono 150 ml di acqua faba, l'acqua di cottura dei ceci, 3 g di cremor tartaro, 200 g di cioccolato fondente, 100 g di frutti rossi misti come more, mirtilli, ribes, lamponi e ciliegie, un pizzico di sale e delle mandorle a fette. Montate l'acqua faba, aggiungete un pizzico di sale ed il cremor tartaro e fate lavorare fino a quando risulterà bella soda, come per fare una meringa. A parte a bagnomaria, fate sciogliere il cioccolato fondente. Mescolando con una spatola, facendo un movimento circolare dal basso verso l'alto, unite l'acqua faba montata, un cucchiaio per volta. Una volta incorporata tutta l'acqua faba, l'aspetto della mousse sarà abbastanza liquido. Dividete il composto in coppette di vetro e lasciatelo riposare in frigorifero per un'ora. La consistenza della mousse diventerà soffice e spumosa, ma compatta. Nel frattempo, lavate la frutta e asciugatela con cura. Recuperate le coppette e guarnite con i frutti rossi e le mandorle a fette. Una buona e attesa notizia arriva finalmente dal Ministero della Salute: nessun certificato per pasti vegan nelle mense scolastiche, negli ospedali o nelle residenze per anziani. Avevamo già accennato in diverse puntate fa prima il rischio che venisse introdotta la certificazione per richiedere pasti vegani e vegetariani. Poi la smentita, ma mai arrivata in forma ufficiale. Finalmente il 15 luglio il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, rispondendo a un'interrogazione alla Camera, ha chiarito che non è necessario nessun certificato medico per la scelta del piatto vegan a scuola. Si sono dunque arenati ufficialmente i tentativi di scoraggiare le scelte alimentari vegetariane e vegane, tentando di fissare l'obbligo di certificazione medica, nonostante le attuali linee guida ministeriali fino al 2010 e la nota chiarificatrice emanata nel 2016 stabiliscono che, non essendo una malattia, la scelta etica e culturale vegana o vegetariana di una persona, di una famiglia, così come le scelte alimentari religiose, non sono sindacabili né attestabili da un medico, ha affermato Paola Segurini, responsabile LAV, Lega Antivivisezione dell'area vegan. Un piccolo sospiro di sollievo per vegani e vegetariani, ma soprattutto un riconoscimento giusto e atteso anche da troppo tempo. To Sempre da larva prendiamo di un sondaggio internazionale commissariato dalla coalizione Cruelty Free Europe, di cui Love è rappresentante per l'Italia, ha evidenziato come tre quarti dei cittadini europei pensino che l'Unione Europea debba fissare obiettivi e scadenze vincolanti per arrivare all'eliminazione della sperimentazione sugli animali. Secondo quanto emerso dal sondaggio condotto da Savanta Comres a giugno su oltre 5.600 persone, il 70% delle persone intervistate ritiene che favorire la piena sostituzione dei test sugli animali con modelli alternativi debba essere una priorità e che sia fondamentale investire di più nello sviluppo dei metodi alternativi. Nello specifico, gli europei che dicono no alla vivisezione e sì alla ricerca innovativa con modelli sostitutivi sono l'85% in Portogallo, l'84% in Croazia, l'80% in Polonia e Romania, il 76% in Italia e Germania, e il 75% in Francia. Il mondo, si legge nella nota stampa della LAV, sta vivendo un momento di grande promozione della ricerca innovativa alla luce dell'emergenza Covid-19. Cruelty Free Europe esorta i rappresentanti di tutti i Paesi membri e le più importanti istituzioni internazionali a sviluppare un piano globale per porre fine al vincolo dell'obsoleto modello animale e dare priorità a finanziamenti per una ricerca human-based, consentendo all'Unione Europea di diventare il leader mondiale nella ricerca senza animali. Ultima notizia è davvero tutto, noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la redazione di Restiamo Animali, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 548 di Restiamo Animali tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.